vita, non piala pompe besita, utile one number kawana nu merdi. Ma letta mammo cucina, ma lei è one number so, uabuca tende we now. Way back.